Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, nuovo appuntamento del lunedì con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica, un comparto sul quale incombe da settimane, quindi ancor prima che coinvolgesse direttamente l'Italia, l'emergenza coronavirus, come vi raccontiamo e vi aggiorniamo. La situazione è difficilissima nelle cosiddette zone rosse, dove ha sede per così dire il cuore logistico del nord Italia, ma il calo dei traffici, le difficoltà per l'approvvigionamento delle merci riguardano un po' tutto il nostro paese. Nei porti si acuisce il calo dei carichi provenienti dal Far East, aumentano i tempi per i controlli sui container con un aggravio di costi, navi che prolungano la permanenza negli scali, prospettive allarmanti per le prossime settimane e i prossimi mesi. Cala anche il trasporto aereo delle merci, ma qui focalizziamo l'attenzione sulla nostra logistica, in particolare sul nostro autotrasporto. Lo facciamo con Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto Confcommercio. Buongiorno Russo. Buongiorno. Allora, le chiediamo di tracciare un quadro della situazione del comparto. La situazione è molto complicata. Noi stiamo registrando notevoli difficoltà dovute sia a richieste che sono a volte abbastanza curiose, sorprendenti da parte degli stabilimenti presso i quali i nostri trasportatori si recano, perché viene richiesto dichiarazioni relative alla certezza che i nostri dipendenti non siano stati a contatto con contagiati, anche in zone che non sono quelle delle zone rosse, per intenderci. Viene richiesto ai nostri dipendenti di essere muniti di mascherini, di guante, di tute. Molto spesso abbiamo difficoltà con i nostri stessi lavoratori che non vogliono recarsi nelle regioni in cui ci sono stati focolai. Ci sono purtroppo diversi stabilimenti che hanno chiuso, diverse fabbriche che hanno chiuso per la difficoltà di convincere i propri lavoratori ad andare, come dire, a svolgere il proprio lavoro all'interno degli stabilimenti. C'è una grande confusione rispetto anche ad alcune iniziative che gli enti locali stanno prendendo sul territorio in ordine, diciamo, alla circolazione, ai divieti di orario di carico e scarico merci. Quindi c'è una situazione molto molto complicata. E in termini di impatto economico sull'attività delle imprese, come si sta traducendo questa emergenza? Cominciamo a registrare una flessione significativa dei volumi. Per quanto riguarda invece il trasporto dei passeggeri, soprattutto relativamente sia al collegamento con le isole minore, sia ovviamente al grande comparto, diciamo, delle navi da crociere, il crollo è verticale e ci troviamo di fronte a ripetute cancellazioni di prenotazioni già fatte e ad una situazione di prenotazioni future sostanzialmente azzerate. In sostanza la gente non sta più prenotando né per andare, come dire, sulle isole, quindi né per utilizzare i mezzi per andare sulle isole per i collegamenti con le isole minore, né dal punto di vista del comparto crocieristico. E quindi situazione veramente molto molto difficile. Ecco, porgendole la domanda, do anche la notizia. Tra poco, intendo oggi pomeriggio, i rappresentanti di tutte le principali associazioni della logistica incontreranno a Roma la ministra De Micheli, un vertice convocato appunto dal MIT per concordare interventi di sostegno al comparto. Ecco Russo, quali sono le istanze principali che il mondo dell'autotrasporto porterà sul tavolo della ministra De Micheli? Allora, intanto deve esserci un principio. Questo vale per tutta l'economia, ma vale soprattutto per la logistica e per il trasporto. I provvedimenti non possono riferirsi soltanto alle zone rosse, perché è evidente che quello che avviene nelle zone rosse ha una conseguenza su tutta la catena del valore della logistica. Quindi tutti i provvedimenti che il governo vorrà adottare non possono limitarsi soltanto a quelle imprese che sono residenti nelle zone rosse. Il primo provvedimento che il governo ha fatto per il rinvio del pagamento delle scadenze fiscali è una cosa, diciamo, utile. È necessario attivare i fondi, diciamo, di garanzia, quelli del medio credito, cercando di dare una procedura più veloce, di aumentare anche gli importi a sostegno delle imprese per dare più fiato, per dare più credito e più sostegno alle imprese. È necessario che il governo intervenga per chiarire che non è possibile chiedere alle imprese di soddisfare alcune dichiarazioni di responsabilità che non sono sostenibili. Ed è necessario più in generale cominciare ad avviare una politica anche di sostegno rispetto agli ammortizzatori sociali per le imprese più piccole, che notoriamente sono, diciamo, escluse dalla possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, ma in questa emergenza è necessario dare la possibilità anche alle imprese più piccole di ricorrere a strumenti come il fondo di integrazione salariale o a quelli che sono gli strumenti più classici della cassa integrazione guadagni straordinaria. Pasquale Russo, segretario generale di Conftrasporto Confcommercio, grazie e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Gli impatti dell'emergenza sanitaria sul settore dei trasporti e della logistica, come abbiamo sentito, sono pesanti e c'è grande incertezza su quello che potrà accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sia a livello globale che a livello nazionale. Per quanto riguarda il nostro paese, si tratta di un colpo al settore, settore che continua a crescere, seppur in maniera più rallentata rispetto al 2018. Secondo un'elaborazione dei dati pubblicata dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, sono aumentati gli addetti, più 6,4%, l'equivalente di poco più di 250.000 unità, e il fatturato, più 8,1%, oltre 46 miliardi totali. Cambiamo argomento, parliamo di infrastrutture, andiamo sulle strade provinciali, quella parte della rete che più soffre la mancanza di manutenzione e lungo la quale la sicurezza è a maggior rischio, come attestano le statistiche. Pensate, quasi il 30% degli incidenti mortali avviene sulle strade provinciali. Per finanziare un piano straordinario di interventi, ora il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato poco meno di 1 miliardo di euro, di cui 60 milioni per il 2020, 110 per il 2021 e 275 milioni ogni anno per gli anni dal 2022 al 2024. A darne l'annuncio il vice ministro Giancarlo Cancelleri, che ascoltiamo al nostro microfono. In conferenza Stato-Città con il ministro Lamorgese abbiamo approvato alla presenza di ANCI, alla presenza di UPI, che insomma sono i presidenti che rappresentano sia le città metropolitane e le province e anche i comuni d'Italia. Un ulteriore finanziamento di 1 miliardo di euro, 995 milioni per l'esattezza, per andare a realizzare interventi urgenti di manutenzione per tutta la rete provinciale. Sono degli interventi che partono nel 2019, ovviamente cominciando a finanziare quelle che sono gli interventi, e mano a mano arrivano fino al 2024, spendendo questi soldi in una maniera abbastanza precisa. Abbiamo approvato una cosa molto importante, è lo schema di suddivisione fra le regioni e all'interno delle regioni fra le province, che era il nodo, diciamo, più difficile da sciogliere, e con la condivisione e col buon senso siamo riusciti in un risultato che è molto importante. Ora dobbiamo fare in fretta, dobbiamo spenderli questi soldi, dobbiamo ridare normalità ai cittadini, agli operatori che percorrono quelle strade. E dobbiamo rimettere a lavorare invece tutte le imprese che ci sono. 1 miliardo da spendere in pochi anni diventa un'opportunità, insieme a tutti gli altri lavori che ovviamente si dovranno fare. A proposito di manutenzione lungo le strade, in Italia solo il 25% dell'asfalto rimosso viene riciclato, contro una media europea del 60%. Negli ultimi 5 anni questa percentuale è aumentata solo del 5%. Secondo Siteb, l'associazione che rappresenta gli operatori del settore, riciclare il 25% del fresato permette un minore impiego di 300.000 tonnellate di bitume vergine e il recupero di 7,5 milioni di tonnellate di inerti. Il tutto si traduce, sottolinea Siteb, in un risparmio che si attesta intorno ai 300 milioni di euro l'anno. E sempre a proposito di infrastrutture, lunedì scorso abbiamo raccontato i disagi subiti dagli autotrasportatori siciliani per i problemi di percorribilità lungo la A19. Ora dalla Palermo-Catania arriva una buona notizia. Da oggi infatti cessa l'interruzione al transito dei mezzi pesanti diretti nel capoluogo etneo in corrispondenza del viadotto Cannatello. I TIR in transito, informa ANAS, dovranno rispettare il limite di velocità di 40 km orari e mantenere una distanza minima di 50 metri. L'aggiornamento dal mercato dei veicoli oggi arriva da quello dei rimorchi e semirimorchi, con massa totale a terra superiore alle 3 tonnellate e mezza. Secondo dati diffusi da Unrae, a gennaio si è registrato un crollo delle immatricolazioni, meno 19,1% rispetto al gennaio 2019. A Padova l'emergenza coronavirus fa slittare di un paio di mesi la seconda edizione di Green Logistics Expo, che avrebbe dovuto svolgersi dal 18 al 20 marzo. La rassegna andrà in scena dal 13 al 15 maggio. Termina qui oggi hashtag autotrasporti, vi ricordo che si parla di trasporti e logistica anche il sabato alle 13.15 con Container, la trasmissione curata da Massimo De Donato. Questo programma ritorna come sempre lunedì alle 13.45, ora la linea passa ai colleghi del GR, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.